questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, eccoci finalmente arrivati al momento di RadioTube con le campanelle di Natale. Quanto ma mi piace. Ma ce le avevi anche nelle ore precedenti, le guarda, campanelle. Le campanelle di Natale di RadioTube era un anno che le aspettavo io, perché era un anno sì, che non infatti, le ascoltavo. Infatti, io non mi ero accorto che non c'erano più durante tutta la... No, scherzo. No, no, ma perché è quasi Natale. È quasi Entriamo Natale, è quasi Natale. Le hai fatti i regali? Li hai già comprati tutti? Tutti. E quest'anno, a differenza dell'anno scorso, neanche uno su internet. Tutti di persona. No, che bravo. Che no, strano. A me ne mancano ancora un po' e quasi tutti online. Quasi tu, beh, ma perché tu sei più tecnologica. No, perché poi io devo sempre cercare le cose. Me l'hai in un certo fatto modo. Soprattutto il regalo di Natale? Sì, sì, perché no, guarda, siamo tutti più lo sveleremo dal prossimo sabato in diretta, perché sì, noi siamo in diretta, anche il 27 siamo in sì, diretta, siamo qua. Sì. E sveleremo i regali rispettivi. Sì, sì, nel sì, frattempo sì, invece vi sveliamo i nostri account di Twitter @dibellasio @martacagnola. L'hashtag, quello delle due ore precedenti, ma anche delle prossime, del prossimo sabato, insomma di quello di tutti i sabati del villaggio, è cancelletto, stavolta dico serio. Sì. ID non ce la può fare, non ci riesce. No, com'era? ISDV, il sabato, okay, del, il sabato villaggio. Del villaggio, facile. Bellissimo. Mentre quello di RadioTube è cancelletto RadioTube. Il sabato va di moda al sabato, perché allora, è il momento Giovanotti del sabato. Ha scritto, dovete sapere che Giovanotti ha scritto una canzone per Marta Cagnola. Certo, pensava a me, al sabato. Infatti su un giornale nazionale, La Stampa, c'è scritto Giovanotti, la canzone per il sabato del villaggio, e globale. Infatti, ma noi sembra... Al sabato del villaggio, noi del villaggio globale parliamo, ma noi continuiamo a parlare di Giovanotti, ma l'ascoltiamo un po'. No, ma il video quanto è bello. Poi scusa, la foto della copertina con la moto sembra fatta proprio per te. Per vabbè, me, sì. dai cioè, Giovanotti, ma anche sabato. Ma il resto del video, però. Sabato. Adesso a letto bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di una... Beh, io l'ascolterei tutta, me ne andrei, ma basta, no, neanche RadioTube. Dopo 30 secondi tu vedi gente in giro che fischietta già il motivo di sabato. Beh, sì, è una cosa incredibile. Sai che adesso bellissimo. Cosa aspetto io? Un duetto con Stromae, perché io un po' di echi tu hai detto di che ricorda sì hai detto un po' questa di echi cosa di Stromae molto colta. Ci sono, e quindi io voglio un duetto Giovanotti Stromae. C'è un po' di elettronica, sai che ho già anche i biglietti per il 25 di giugno. Ma ma tu sei fatto sempre che... troppo previdente. No, ma no, ma ormai i biglietti dei concerti si comprano tipo nel 2017 previdente. Come l'uscita dei come Minions. L'uscita dei Minions, ne riparleremo dei Minions, ma intanto facciamo i bilanci. Dai, i bilanci. Allora io ascolterei un pochettino di una musichetta della quale poi adesso però dobbiamo raccontarvi questa musichetta cosa accompagna. Allora, sono tutti i tweet più importanti dell'anno, gli hashtag più importanti dell'anno e quindi anche gli account più importanti anche i nostri, dell'anno. Quindi. Ma certo, ma certo, ma certo. In realtà questo video che tu mi avevi segnalato parlava dei video dei momenti di Twitter più importanti in India. Infatti si parlava il problema anche... è che io non mi ero accorto che si parlava. No, perché si parlava anche di elezioni indiane. Ma le elezioni indiane sono importanti in tutto in il mondo, hai cioè ragione. Voglio dire. Hai ragione, però basta andare ad esempio su 2014.twitter.com/moments per vedere i momenti più importanti di tutto l'anno, mese per mese. Ovviamente c'è la Coppa del Mondo, sì, ci sono i Golden Globe, ci sono Sanremo, i Grammy, c'è anche l'Eurovision. Ah, c'è anche l'Eurovision. Hashtag sì. Escita. Ovviamente ci sono gli Oscar con col selfie sì, più beh, famoso del mondo, eccetera, eccetera. Beh, insomma, 2014. Sì, dal telefonino. Twitter.com c'è anche Bring Back Our Girls. Tutte dice le molto, cose, dice molto cose, di noi, mi piace molto. 2014.twitter.com/moments, si vedono anche quelli italiani. Ma non puoi fare quello tuo personalizzato come potevi fare su Facebook? Quello di Facebook non era male. Ma si può ancora? Sì, era bello dell'anno. Dobbiamo riprovare. Per me era venuto un anno stupendo. Ad esempio, una delle mie passioni su Twitter è l'app Time Hop, che ogni giorno mi scarica i tweet, i post di Facebook di 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni precedenti. E così è bello. Ti ricordi ma anche come stavi messa? Sì, quello che postavi sei l'anno migliorata? Precedente. Ho vissuto. Hai vissuto? Vabbè, sembra un'intervista a fine carriera. Vabbè. Ho vissuto. Invece su Instagram, sai su cosa Instagram, vogliono fare? Cosa vogliono fare su Instagram? Non ho capito benissimo, perché io sono un po' scettico nei confronti delle cose costruite. Cioè hanno lanciato l'idea di fare una sorta di serie, miniserie televisive. Sì. No, aiutami, che sbaglio. Allora, su Instagram da un po' di tempo puoi si possono postare i video. Cioè, prima c'era solo Vine, che erano mini solo telegiornale, certo, su Vine c'erano i 6 secondi, invece su Instagram puoi postare qualche secondo in più. Sì. Allora ci sono questi 30 Lies, un'agenzia di produzione video di comunicazione italiana che si è inventata uno di troppo. Su Instagram e Facebook hanno iniziato il 17 dicembre, andranno avanti fino alla vigilia di Natale. E cosa fanno? Ogni giorno una puntata di questa serie TV, ma web, non so. Però essendo su Instagram i video durano 15 secondi l'uno. 15, quindi non Vine che erano 9. Che erano 6. No, 15 secondi. Ascoltiamo la prima puntata. Ecco, sì, la prima puntata è già finita. Ragazzi, l'abbiamo mandata, non vi siete accorti. Sentiamola qua, 15 secondi, uno 15. Di troppo. Un cioccolatino al giorno fino alla vigilia dell'avvento. La sua vita procedeva freneticamente, senza lasciar tempo al tempo. Ma non appena di casa l'uomo d'affari usciva, la luce come d'incanto si riaccendeva. Mi ha già preso, voglio sapere come va avanti. La altri storia 15 di una secondi. Strana convivenza tra un uomo e una donna, ogni giorno 15 secondi. In realtà bisogna comunque segnalare che c'è un altro esperimento molto bello già da un po' di tempo su Instagram che si chiama Artistically Challenged, cioè ACT the series, insomma adesso sì, l'ho posto perché è un serve? Po' difficile dirlo. E anche questa è una web series con puntate da 15 secondi l'una su Instagram. Ma attori veri o attori veri, così si fa. Poi potremmo partecipare e mandarli in onda durante RadioTube. Sì, 15 secondi. 15 secondi, 15 secondi. Di quando facciamo come le scalette, di quando facciamo le fotografie. Sì. Vabbè. Come direbbe Gianluca Ricoletti, più veloce di una fucilata nello spot. Oppure come diceva Maurizio Costanzo, un inframuscolo. Esatto, un inframuscolo. Vorrei salutare invece i The Pills. Sì, perché noi tanti saluti a The Pills. The Pills non l'avevamo detto a maggio scorso che stavano facendo qualcosa. Noi, come dice Pippo Baudo. Sì, abbiamo scoperti noi che avrebbero fatto una cosa per la Rai. Ebbene sì, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì, inizia Zio Gianni, la nuova serie TV con Paolo Calabresi. Quindi vabbè, ascoltiamolo proprio solo un pezzettino del backstage di Zio Gianni. Parla di un uomo di 50 anni che perde il lavoro e perde la moglie, fondamentalmente viene cacciato di casa. Oh, Giannone, grandissimo! Come stai? Insomma, Zio Gianni e Paolo Calabresi, un signore di mezza età che perde il lavoro, Gianni perde Morelli, la... No, questa volta più amato no. Dai social. Che cosa deve fare? Beh, la storia è già sentita, perché è già capitato, no? Perde il lavoro, perde la donna e va a condividere la casa. C'era stato anche il film di Verdone, però la cosa bella è che lui va a convivere con dei ragazzi molto giovani e che sono poi The Pills. Quindi io so già che sarà irresistibile e loro mi piacciono molto, viva The Pills. YouTube. Allora, la scorsa settimana, nel sabato del villaggio, non so se tu hai sentito anche l'inizio della trasmissione, perché hai questo vizio di arrivare più tardi. Guarda, io lo sento e poi me lo scarico il lunedì, la in risento podcast, anche il lunedì in podcast studi, da radio24.it. Insomma, io ho intervistato Suor Cristina la scorsa settimana, l'ho rincorsa per mesi, non è facile perché corre tanto. Ma no, ma perché poverina la sballottano, io l'ho trovata praticamente mezz'ora, stava tornando da Roma, stava andando a Berlino, adesso è famosa in tutto il mondo. Sai che è uscito un nuovo video di Suor Cristina? Che cosa canta? Blessed Be Your Name, ecco qua il nuovo video di Suor Cristina. The land. that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk. E questo è il nuovo singolo di Sister Christina. Non si può più dire Suor Cristina perché ormai è internazionale. Ha cambiato nome, brand. Sì, ormai è Sister Christina. Chissà bella quante. Comunque, ma non è male, non è questa male. Canzone. Beh, vai. Lei vuole aprire anche in Italia questo mercato, che è quello del Christian Rock. In Italia non abbiamo le c'è band. Un mercato? Certo, c'è un mercato mondiale di band rock che sono che fanno più o meno solo pop canzoni che di Natale, fanno dagli UM. No, non Christmas Christian, cioè solo canzoni di ispirazione cristiana, una roba serissima. No, non metto in dubbio, anche quelle di Natale peraltro sono serissime. Beh, certo, quindi vabbè, chissà come andrà questo nuovo singolo di Suor Cristina. Però dicendo così sembra una cosa costruita. Beh, insomma, alla fine quando costruisci un disco, costruisci single, certo. Insomma, è comunque un progetto un discografico. Progetto a me è sembrata una ragazza molto giovane, molto entusiasta. Non so poi come continuerà la storia di Suor Cristina, perché è una storia molto complessa, però mi è sembrata molto giovane e molto entusiasta. Si parla tanto però di personaggi pubblici legati alla Chiesa. Sì. È quasi Natale. Sui social network tantissimo. Poi c'è stato il compleanno dell'account, giusto? Certo, il compleanno dell'account del Papa. In realtà appunto l'account Pontifex abbiamo Esisteva da 2 anni. Quindi non l'ha aperto Papa Francesco, l'aveva aperto Papa Benedetto. E abbiamo trovato un pezzettino del centro televisivo Vaticano. Questo era il servizio che annunciava la nascita dell'account di Pontifex. Al termine dell'udienza generale, il Santo Padre ha lanciato oggi i primi tweet dal suo account personale. L'iniziativa è stata presentata presso la sala stampa della Santa Sede lo scorso 3 dicembre. Inizialmente i tweet saranno pubblicati in occasione dell'udienza generale del mercoledì, ma in seguito potrebbero avere una frequenza maggiore. I primi tweet riguardano i contenuti della catechesi e risponderanno alle domande indirizzate al Papa nelle scorse settimane su questioni relative alla vita di fede. La tenerezza di Papa Benedetto con davanti questo iPad, che non sapeva bene, e sembra un altro mondo lo faceva. Incuriosito, tenero, sì, tutto un altro mondo. Insomma, adesso i social sono entrati in maniera forse un po' diversa, così, nel mondo della Chiesa, nel mondo dei cattolici. Io ne parlerei con un ospite, ecco, quasi. Parliamo, che, visto che è in studio, mi piace questa cosa che è in studio. Sì, è in studio con noi. Lo vuoi presentare tu, Daniele? Perché vuoi che dica la qualifica, esatta? Sì, perché voglio metterti alla prova se conosci se io sono la il bravo qualifica conduttore. Esatto. Allora, abbiamo in studio Don Davide Milani, che di qualifica esatta è il direttore della comunicazione della diocesi di Milano, che è la diocesi più grande del mondo, giusto? Mai più senza, sì, è la più grande diocesi del mondo. La seconda qual è? Non si è mai detto qual è la seconda. Ma tu pensi, perché? Se vuoi sapere la seconda, no, chi arriva secondo, l'importante è arrivare primi. Vabbè, essendo interista ogni tanto interista. Mi occupo anche del secondo e dei terzi. Ma sai, parliamo anche di cose serie. Sai che un account di Twitter? Certo, lo seguo chiocciola io. Chiocciola Dav Milani, però non hai messo il Don, sei solo Davide Milani su Twitter. Ma sei sì. Lo segui molto il tuo account? No, è a mia insaputa. Te l'ha aperto? No, dai. L'ho aperto, ma in realtà è un modo, uno sguardo, un terrazzo sul quale mi affaccio su questa grande piazza che è Twitter. Purtroppo non mi applico con precisione. Sono curioso di sapere se invece segui, però, al di là del tuo account, questa è una bella domanda. Se tu leggi gli altri. Certo, sì, fondamentale per il mio lavoro, per passione, ma così come ogni cittadino sono molto appassionato. Anzi, cosa ti piace? Che cosa ti piace di Twitter? Di Twitter mi piace per il lavoro che faccio, per la comunicazione, il modo con cui racconta il mondo. Le ultime notizie di cronaca, gli ultimi accadimenti spesso li trovo sempre più su Twitter, le agenzie quasi le guardo sempre meno, ecco. Quindi l'istantaneità e poi capire subito chi ti dice quella cosa, che sguardo ha, che storia ha, chi è che te la dice. Quindi cose che ad esempio dietro al sistema delle agenzie, delle breaking news, c'era poco prima. C'è io penso che abbiamo sentito Suor Cristina, non mi trattengo, voglio chiedere a Don Davide cosa ma pensa. Ma io volevo di Suor evitare Cristina. Questa no, cosa. No, dai, se va bene. Cosa. Cosa ne pensa lei di Suor Cristina? Una grandissima simpatia umana per il coraggio che ha avuto con tanto di tonaca e croce a partecipare al talent, a metterci la faccia, a andare come suora senza farsi sconti, e lo dico appunto con tutto l'affetto possibile, però anche con molta sincerità da parte mia, un'occasione sprecata, perché è entrata dentro nel grande meccanismo, nel grande ingranaggio della comunicazione, sarà una delle tante. il mondo della comunicazione abbastanza complesso, abbastanza violento, se la mangerà speriamo non ne faccia polpette. Sarebbe stato geniale se lei la sera in cui ha vinto il The Voice avesse detto: sapete cosa c'è, io vi saluto, volete venirmi a vedere, volete sentirmi, venite in parrocchia, io sto lì con i ragazzi. Sarebbe stato un po' aveva devastante. Detto qualcosa però. Ma sì, questa cosa dell'essere stritolati, dell'essere inglobati, la rete un po' è la stessa cosa, no? Dà un po' la sensazione, noi spesso, facendo un po' i moralisti, diciamo che sulla rete emerge quasi più, come l'abbiamo definita l'altra volta? Vabbè, la stupidaggine, sì, diciamo. Sì, emerge un po' molto volgare, non e me quindi la sento tanto. C'è l'idea che comunque se tu ci entri nei social network o nella rete, cosa che peraltro la Chiesa ha fatto abbastanza da subito e abbastanza ad altissimo livello, appunto l'account del Papa, c'è un po' la sensazione, la paura di essere inglobati, stritolati, diventare una parte di un meccanismo che non governi più. Come si ci si comporta? Per quanto riguarda i social media o in generale il mondo di internet, penso sia più facile difendersi, costruirsi un profilo, portarlo avanti, se profilo in senso lato, se lo si fa in maniera accorta, oserei dire scientifica. Invece gli old media, la televisione, i giornali, gli strumenti di massa, quelli quasi unidirezionali, quelli invece mangiano, perché costruiscono una sensazione o un'allure, e poi quando non sei più funzionale quel sistema diventi parte della grande categoria degli ex, quelli che una volta fecero l'impresa. Allora, il nostro Nicola Scevola è andato a incontrare Mr. Greg Burke, che è il consigliere per le comunicazioni del Vaticano, e gli ha chiesto un po' la nascita di questo account Pontifex, che insomma alla fine seguiamo tutti ed è importante per tutti. Ecco cosa ha raccontato Mr. Greg Burke. No. It was actually Twitter got started under Pope Benedict, who is a pen and paper pope, and actually. Allora, in realtà, lo ricorda anche Greg Burke, Twitter è iniziato con Papa Benedetto, che lui ha definito un pen and paper pope, cioè un papa di carta e penna. Però sì, dice in realtà anche Papa Francesco sarebbe un papa carta e penna, fosse per lui. Però dice il modo in cui parla funziona benissimo per Twitter e ci sono tantissime immagini perfette per i social media. E questa è, secondo me, un'affermazione molto molto interessante da parte di Greg Burke. Cioè, la comunicazione del Papa è perfetta per i social media, mi verrebbe da dire anche viceversa. È importante questo. Sì, perché nel suo modo di periodare ci sono queste frasi molto incisive, molto brevi, molto pensate, le sue parole sono parole colorate le sue, sarà per la fatica del pensare, immagino, nella sua lingua nativa e poi esprimersi in italiano, sarà perché viene, tutti lo percepiscono come uno che viene dal popolo. Le sue frasi sono molto efficaci, soprattutto nelle sue espressioni su Twitter, ad esempio, si sente lui, si vede lui, non c'è niente di artefatto, non c'è un grande ufficio strategia o pianificazione alle sue spalle. Questo è quello che piace, e la prova è guardare le risposte che ha a ciascuno dei suoi tweet, si vede la gente che quasi si confessa da lui, consegna la sua vita, e questo vuol dire che la comunicazione è proprio efficace. Ecco, ma tu sei un uomo di chiesa, ma di lavoro ti occupi anche di comunicazione. Ti dà fastidio, oppure è giusto che sia così, quando di un uomo di chiesa, del Papa lo dicono quasi tutti, un grande comunicatore, si dice, ed è anche un bravo comunicatore, bravo a comunicare, perché... Cioè, come se ci fosse No, perché nella vita, quando si dice, anche per esempio del nostro Presidente del Consiglio, no? Tutti dicono, bravissimo comunicatore, ma la frase successiva di solito è ma, no? Di un uomo di chiesa questo è il ma è ancora più grosso. Dà fastidio, oppure... Nella società contemporanea, o forse addirittura fin dalle origini, diciamo, della Chiesa, comunicare è una cosa importante, non deve essere una cosa che uno dice sì, sono bravo a comunicare, quindi un po' me ne vergogno. A me dà fastidio personalmente proprio per questo motivo, perché noi dovremmo essere esperti di comunicazione, non tanto esperti in usare gli strumenti, ma esperti nell'annunciare quella parola che ci è stata consegnata. Il fine della Chiesa è la comunione, cioè costruire il regno di Dio già qui, grazie appunto alla grazia divina. La comunione è un'azione di comunicazione. Dio a Natale si incarna, diventa comunicazione. Tradotto, questo dovremmo fare, comunicare. Mi dà fastidio perché abbiamo dimenticato per troppo tempo ciò di cui siamo stati pionieri per secoli, per decenni, l'arte del comunicare. Per troppo tempo ci siamo nascosti mediamente come Chiesa dietro la forza delle istituzioni, la forza delle opere, la forza di una verità quasi da lasciare anelli per uranio. Invece, come ci dice Papa Francesco, la verità è da spezzare, da consegnare. Nella verità bisogna crederci, e quando uno ci crede al di là delle strategie o meno, la comunica, come fa lui? Volevo solo dare qualche dare i numeri, ve li do di solito, stavolta siamo a Radio 24. Allora, quando è nato l'account Pontifex, l'account più seguito era quello in inglese. Sì. Invece ora ha superato l'inglese e lo spagnolo, perché lo spagnolo è seguito, sì, da più di 6 milioni di followers, superando appunto lo spagnolo. La cosa però più divertente secondo me è l'account in latino, perché c'è anche l'account in latino. Certo. YouTube. Rieccoci insieme con il nostro RadioTube, i nostri account chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio, hashtag RadioTube. Io siamo intanto qua. Controllo quanti sono i followers di Pontifex in latino. È bellissimo, stiamo parlando di comunicazione, di religione, di Chiesa Cattolica e anche ovviamente dell'account del Papa, con un ospite che a me piace particolarmente. Sì, Daniele. Don Davide Milani, responsabile della comunicazione della diocesi più grande del mondo, che è quella di Milano. Mentre hai controllato, sei riuscito a controllare? Sai che sto guardando, sarà questo qua in latino, Papa Franciscus, 303.254. Beh, non male. Followers. No, certo, più di me. Mi piace. No, allora, poi la bio di Papa Franciscus in latino, tuus adventus in paginam publicam Pape Francisci brevi loquentis optatissimus est. Invece vorrei segnalare la bio di Don Davide Milani, che non è in latino, ma è praticamente in brianzolo, senchi pruisori, che anche senchi pruisori, che ma è perfetto. Ma anche Vin City? No. Vi mercate? Come no. Val Greghentino, vicino a Lecco. Ah, più a nord. Io sono bassa. Abbiamo sentito prima un estratto dell'intervista di Nicola Scevola a Greg Burke, consigliere per le comunicazioni del Vaticano. Una delle cose che però viene più spontaneo chiedersi è se i social media possono aiutare, ad esempio, i giovani ad avvicinarsi alla Chiesa. Ecco, Nicola Scevola l'ha chiesto a Greg Burke. It's impossible for us to say, we can look at the numbers, it's impossible for us to say, is Twitter bringing people back to the church? That's giustamente Greg Burke dice, è impossibile dirlo con certezza, non ci possono essere prove certe, si possono guardare i numeri, e dice in maniera molto interessante, è impossibile per noi dire se l'account Pontifex sta riportando la gente in chiesa, ma sicuramente sta indirizzando le persone verso la direzione giusta. E secondo me è una frase molto bella, è giusto così, insomma, non può avere un potere... Beh, forse non è neanche giusto che sia proprio uno strumento di marketing puro. Certo, però può indicare... Indica, a me piace molto questa. Ma che cosa ti fa paura, Don Davide, di Twitter? C'è qualcosa che pensi che invece sia negativo? No, non vedo nessuna paura in Twitter, come non dovremmo avere paura di nessuno strumento. Bisogna imparare a usare bene gli strumenti. Come diceva bene prima Marta, la positività della presenza del Papa su Twitter, ad esempio, è che non rimanda a sé. La sua non è una comunicazione che rimanda a sé, cioè seguitemi, sono meglio. La sua preoccupazione non è aumentare i follower, ma è indicare appunto una direzione, e la direzione è verso l'altro. Parla di Dio in maniera autorevole usando uno strumento. Quindi è chiaro che Twitter può generare dei problemi, ma come qualsiasi realtà umana. Cioè Twitter è una grandissima possibilità, una grandissima realtà. Devo dire che a me ha colpito e anche un po' stupito, per esempio durante il recente sinodo della famiglia c'erano persone che partecipavano al sinodo che usavano Twitter anche in modo spigliato, il che vuol dire che non c'erano troppe regole, troppa paura, troppa attenzione, cioè è stato colto dalla Chiesa anche con una certa libertà di espressione. Per dire, ci sono aziende, squadre di calcio che si pongono il problema proprio delle regole pure. E anche questo è interessante, sorprendente per certi versi. Certo, Twitter a me sembra una grande piazza ordinata dove la domenica, se ancora esistono questi luoghi, la gente si trova con i vari crocchi, dove tutti sono nella stessa piazza, tutti fanno trasparire atmosfera di festa, qualcuno arrabbiato c'è sempre perché in ogni piazza ci sono radunati in funzione degli interessi e la gente comunica, si può controllare una piazza piena, qualcuno ci ha provato ma non ha fatto una bella fine a lungo andare. Certo. Quindi la bellezza di una piazza, certo servono delle regole perché appunto, non proseguo un'analogia, è sufficientemente chiara, è una grande opportunità. E a proposito di regole, sai che ci sono delle regole che stanno dentro un tweet? Ah sì, ma ci sono delle regole piuttosto importanti, piuttosto famose, sì. Qualcuna violata, che forse tutte, no, esagerate, che sei più o meno, beh, sono tornate se molto ne di parlato. Moda, se ne è parlato molto questa settimana. Queste regole di cui abbiamo sentito ogni tanto parlare sono i 10 comandamenti. Sono i 10 comandamenti. Questo. Siccome Benigni di solito sceglie degli argomenti difficili, poco noti da affrontare in pubblico, ha scelto i 10 comandamenti. Ha scelto i 10 comandamenti con un successo di audience enorme. Terzo evento televisivo dell'anno. Sì, dopo Italia, Uruguay e ovviamente il Festival di Sanremo. Beh, insomma, i due grandi eventi dell'anno. Io ascolterei un pezzettino di questi 10 comandamenti, che è stato forse quello che ha scatenato di più. E prova a indovinare qual è. Chissà qual è il comandamento che ha scatenato. Settimo comandamento: non rubare. Diciamo, ci ha fatto un comandamento proprio per noi italiani. Sapete che pare infatti che Dio l'abbia proprio scritto direttamente in italiano. Ha detto proprio non rubare, e Mosè gli ha detto che c'è scritto? Poi c'è scritto non rubare in italiano, perché in italiano? Oh, so io Mosè, capirai fra tanto tempo. Basta dire non rubare e già ridevano, tutti, perché insomma, era ovviamente in questo periodo storico quello che sapevano questo, tutti 10 anni fa, 20 anni fa. Sì, sicuramente, ma diciamo che proprio nell'immanente erano lì tutti pronti ad aspettare. Non rubare e non commettere atti impuri, secondo me. Infatti poi ascoltiamo anche un pezzettino di non commettere atti impuri. Don Davide, li hai visti i 10 comandamenti di Roberto Benigni? Non li ho visti, ma li ho seguiti con il live tweeting più o meno ufficiale, quindi li ho seguiti su Twitter perché avevo altro da fare. Purtroppo li avrei visti volentieri, ed è stato un esperimento originale vedere due trasmissioni attraverso Twitter. Sì, anche perché quando lo vedi su Twitter la gente o lo ama, dice straordinario, o dice oddio orribile, e quindi non si capisce mai. Beh, qual era molto è amato, sì. C'era un bel mix, ecco, la maggior parte dei sentimenti erano tendenzialmente positivi, non mancavano chi li ha detestati, chi ha detestato queste due serate. Tra l'altro li rimandano in onda su Rai 5. Sì, li rimandano su Rai 5 il 25 e il 26, per chi li avesse persi, perché non ci sono online sul servizio, sulla piattaforma Rai. Non ci sono. Vabbè, lì questioni di diritti, sì, anche Aldo Grasso ha sollevato quindi, la questione. Comunque, a parte che i diritti dei 10 comandamenti è quello che no, l'aspetto che copyright. Mi piace di meno, allora è ovvio che Benigni è bravissimo come maschera, appunto ha detto non rubare e solo con un gesto del corpo ha già fatto ridere tutti. Ok, però è un po' facile fare, insomma, i 10 comandamenti sono come prima Dante, tutte le cose più pop, più pop nel senso di vero, capito? Più di successo, non lo so, tu che dici? Beh, non era facile, perché è vero, i comandamenti sono noti, ma sono parole pesanti, impegnative, a volte anche ingombranti. Non avrai altro Dio all'infuori di me, cioè in un grande sì, però show poi fa notizia per il non rubare degli italiani. Vabbè, la battuta è anche abbastanza facile. D'accordo, però la gente è rimasta, i grafici d'ascolto sono interessanti davanti a tutta la serata, anzi è andato in accumulo, quindi non è semplicemente quello che è andato sui giornali. Noi purtroppo, perlomeno certo, io, riteniamo, cioè ci confrontiamo con la percezione che abbiamo di un evento ancora guardando i titoli dei giornali. Sì, su Twitter questo non c'è stato, è stato più uniforme la recezione e tutto il rilancio. È stato un esperimento molto coraggioso, lo dico da credente, o perlomeno da uno che si sforza di esserlo. Avere il coraggio di parlare di Dio in uno spazio pubblico, di fare ascolti, di farlo bene. Poi qualcuno l'ha criticato perché, appunto, preannuncio già il contributo che avete voi stessi annunciato prima, magari su alcune cose non è che ha detto proprio delle grandi verità, ma lui è un guitto che fa il suo percorso dentro l'esperienza di fede, non lo so, non sta a me dare patenti, ma ha avuto questo coraggio, l'ha fatto bene con un linguaggio che gli uomini di chiesa dovrebbero imparare. Chissà la prossima volta, perché dopo i 10 comandamenti che non cosa ho idea. Prendi? Non puoi alzare ancora l'asticella. No, mi sembra che siamo arrivati, cioè Dante ha fatto inferno, sì, purgatorio, paradiso, 10 comandamenti, ma basta. La formazione del grande Torino che ha vinto 5 scudetti potrebbe fare. Ma se lo dici tu, se lo puoi dire tu, noi cosa dobbiamo fare adesso? Beh, ascoltiamoci un pezzettino di questo non commettere atti impuri che ha fatto molto ridere, ma anche molto discutere. Non precisando quali siano questi atti impuri da commettere, si arrivava a pensare che era un peccato gravissimo tutto quello che riguardava il sesso in generale. Qualsiasi cosa che aveva a vedere col sottosopra, insomma, era peccato mortale. Ma da starci male proprio, ma non è la visione della Bibbia. Guardate che hanno fatto diventare con questo comandamento sesso e peccato sinonimi. Il sesso è il peccato. Infatti, Se uno dice quella è la casa del peccato, non è che uno pensa che è una casa dove si dice falsa testimonianza, no? Diciamo, se si dice quella è una donna peccaminosa, non è che si pensa a una donna che non santifica le feste, diciamo. Ecco, peccato è sinonimo di sesso. E qui ci sono state un po' di discussioni, perché lui ha dato un'interpretazione del comandamento, secondo alcuni un po' troppo personale. Però devo dire che questo secondo me è stato il momento in cui lui ha cercato di mediare tra la lettura, sì, di Dieci Comandamenti e lo spettacolo. Ha cercato, sì, di fare anche un po' di spettacolo parlando. Io mi sono molto divertita anche a seguirlo su Twitter. Poi io ho una parte della timeline che seguo di sacerdoti molto simpatici. A un certo punto io mi sono lamentata, bravi, perché ho detto vabbè, però l'hanno fatto senza spot. Ma uno spot ci stava, perché a un certo punto uno poi è abituato a un certo punto ad andare a fare un giretto. Cioè tu metteresti uno spot nei Dieci Comandamenti? No, ma perché così uno si alzava un attimo, andava a bere un bicchiere d'acqua. Ma quanto lo facevi pagare? Scusami. Ma non esiste. Però io no, ho molto riso perché l'ho twittato. E un sacerdote che io saluto, che è molto simpatico su Twitter, Don Dino Pirri, mi ha scritto: non ti preoccupare, vai a pure fare la pausa, tanto io li so e ti aggiorno io su quello. Comunque, che anche sul comandamento lì sul sesso facile, battuta facile. Abbiamo ancora un minuto, Daniele. Non lo so, cosa possiamo dire? Come ci si io penso che Twitter sia come fuori, no? Lo dicevi anche tu, quindi dobbiamo comportarci bene. Però ogni tanto ci facciamo prendere dalla schiettezza. Quindi? Dalla schiettezza? Ci facciamo prendere dalla schiettezza o dalla voglia di piacere a tutti i costi, e non siamo autentici. E il Papa è autentico perché dice quello che pensa. Girando nelle parrocchie a parlare di comunicazione la sera, invitato dai gruppi, dai genitori, trovo il terrore per questi strumenti di comunicazione elettronici, diceva, sì, McLuhan. Perché i genitori sono spaventati, perché non li sanno usare o perché li usano male loro e ne vedono gli effetti. E c'è questa follia che gira, che anche voi dovrete contribuire a sradicare, cioè dalla considerazione degli strumenti digitali come mondo del virtuale. Quello è il virtuale, il reale sta altrove. Non esiste questa distinzione. Sì. Dobbiamo far capire, evangelizzare, scusate, uso questa parola a caso, è un mondo reale anche quello. Capitano delle cose che hanno degli effetti, che producono degli effetti. Con questa considerazione l'atteggiamento della Chiesa potrebbe essere più maturo, l'atteggiamento di chi ha responsabilità educative, la famiglia, la scuola, le parrocchie, potrebbe essere dare un contributo maggiore per i ragazzi per crescere grazie anche a questi strumenti straordinari che abbiamo a disposizione. Meraviglia, però io devo dire a Don Davide Milani che nel 2015 deve twittare di più, perché io lo seguo, chiocciola Dav Milani, Senchi Provisori è bellissima come bio di Twitter. Don Davide, grazie per essere stato con verità, noi. È una grande verità. Davvero grazie per essere stato con noi. Buon Natale. Buon Natale, che bello. Auguri. YouTube. Ma come vola il tempo quando ci si diverte anche sotto Natale, anche parlando di cose serie. Senchi provvisori. L'ho detto giusto, almeno giusto. Il Brianzolo. Tu sei più ferrato sulle robe piemontesi. Sì, un po' di più. Ma quindi, ti ho portato un altro regalo. Guarda, io ti ho portato un altro, fermi tutti. Quando mi arrivano i video di Daniele Bellasio penso sempre che siano, non so, segnalazioni. Questo di cose... è merito di Rocco, tu sai, sì, che io ho un suggeritore. Sì, perché allora tuo figlio ha 6 anni, io di fronte ai Minions ne ho ancora meno, ne ho 5 e mezzo, io impazzisco perché, lo abbiamo detto, i Minions arriveranno a breve, sì, però il trailer c'è già. Gli aiutanti di Cattivissimo Me 3 uscirà nel 2017, sì. 2 uscirà nel 2, cioè 2, il film dei Minions, lo spin-off come dite voi, uscirà nel 2015, ma stanno centellinando i trailer, cioè tutto lo spoileraggio in anticipo, e io ti regalo questo video. Io ne ascolterei un pezzettino. Matoka! Pura nulla, Matoka! Banana! Banana! Allora, chi conosce i Minions sa che sono ossessionati dalle banane. Sì, mangiano sono le gialli, banane. Sono piccoli, gialli. Qui sono su una specie di zattera. A volte hanno un occhio, a volte due. Questo è bellissimo. Sì. Eh sì, perché ognuno è fatto a modo suo. Sì, è poi c'è quello suo. Golfista, c'è quello con due occhiali, ognuno c'è bellissimo. Un po'. Bellissimo. E praticamente sono su questa zattera. Stanno, poi raggiungeranno finalmente New York nel 1968, però hanno fame. Sì, e ma tocca. Uno, che, ma vuol tocca dire fame. Evidentemente vorrà loro, dire... Ma sì, che lingua parla? Non si sa. È inventata. Banana però no. No, solo banana. Banana. E quindi uno vede l'altro, si immagina che sia una banana e gli salta addosso e comincia a leccarlo in faccia. Perché assomigliano un po', sono delle banane più strette. Io devo dirti che di fronte a una cosa del genere io divento matta, ma io non lo so perché. Ma i Minion sono dei personaggi. Io divento stupendi. Matta. Ma è ci sa, ma quelli viola, quelli che erano diventati vittime, cioè cattivi, i Minion, bellissimo. Ci saranno nello spin-off. Ma speriamo. Comunque, in questo video loro arrivano a New York nel 1968, a un certo punto si infilano nelle proteste del 68. Sono straordinari. Bello, c'è il messaggio politico. Sono straordinari. Ricordiamo che su YouTube potete trovare anche la canzone di Natale, quella che dura 5 ore e che Marta sente tutti i giorni ore. Per metà, 2 ore e mezza, due quasi come la lunghezza del Sabato del Villaggio. Sì, quasi, 3 ore. Però questa settimana, purtroppo, insomma, siamo rimasti tutti toccati dalla scomparsa di Virna Lisi. No, anche perché ha lavorato sempre, era come come fosse ancora in onda. Tra l'altro, una cosa, ho recuperato una vecchia intervista che avevo fatto con lei, una intervista bellissima nella quale a un certo punto l'avevamo fatta al telefono, a un certo punto lei mi aveva detto, guarda, perdonami, c'è mio nipotino che vuole sapere con chi sono al telefono e me l'ha passato, perché il nipotino diceva, nonna, voglio sapere con chi sei al telefono, voglio parlarci io. Cioè lei era proprio così, era una nonna, oltre a essere una donna bellissima, però una donna veramente... Una donna, appunto. Infatti, ma una volta non disse anche, ma che c'entro io con Marilyn Monroe, ma certo, perché lei era bellissima, però viveva la bellezza in maniera totalmente naturale. E in quell'intervista mi disse, ma a me piacerebbe fare anche... Anche perché la bellezza è o è naturale. E lei diceva, a me piacerebbe anche fare dei ruoli da cattiva, ma se faccio un ruolo un più da cattiva, la gente mi ferma per strada e mi dice, no, lei però una volta l'ha fatto, io l'ho visto in una serie su quella lì, su Mediaset. Sì, ha fatto anche dei ruoli, però diceva, la gente mi vuole vedere buona, la gente mi vuole buona. Noi... Io veramente la vorrei vedere in Sapore di Mare. Sapore di Mare è stato... Ma sai che ha vinto un premio importante per quel Sapore di Mare lì, eh? Sì, adesso lei... controllo, ma mi pare quel film, insomma, ne abbiamo già parlato, ha veramente segnato la nostra generazione, era un film strano. Hai detto la nostra generazione? Io rivendico la nostra generazione. Che hai tre giorni in più. Uscito, sì, io ho un anno e 4 giorni in più di te. È uscito nel 1983... ma parlava degli anni 60, quindi unisce l'immaginario degli anni 60 con l'immaginario degli anni 80. Il sex symbol degli anni 80, così come era percepito in quel momento, che era Isabella Ferrari. Ha vinto il David di Donatello, ho controllato qui personalmente. Per Sapore di Mare, pensa tu. Il sex symbol degli anni 80, stai dicendo? Che era Isabella Ferrari. Adesso? Vogliamo parlare di che cos'è adesso? No, vabbè, andiamo avanti. Vabbè, parliamo di cose serie. E lì c'era l'incontro tra generazioni, tra Virna Lisi e la giovane che era Isabella Ferrari. Quindi Virna Lisi, che aveva fatto innamorare di sé il fidanzatino di Isabella Ferrari, assumeva la colpa, faceva finta di essere lei la colpevole di tutto questo per far sorridere Isabella Ferrari. Questo è un pezzettino monumentale di quel cinema. Queste sono cose che a una donna della mia età possono succedere. Una si annoia, si sente sola e così punta un ragazzo più giovane. Sono stata io a stuzzicarlo, Gianni. Sai una cosa, Silvia? Il problema è che diventare vecchi fa schifo. E io lo sapevo che ti avrebbe colpito questo diventare vecchi che fa schifo. Che poi non era quello che pensava, perché diceva le rughe sono la naturalezza. Sì, Sole Enrico Manzina, che tra l'altro era il regista di questo film insieme al fratello Carlo, ha secondo me colto nel segno del perché era grandissima. La naturalezza sia nella bellezza e sia nella bravura come attrice. Questo film lei era pazzesca, l'ho riguardata e molti hanno ricordato film più impegnati, ma in cui lei era veramente impegnato. Sai che io ero piccina e però io pensavo che lei fosse anziana, cioè una donna anziana, cioè io pensavo che il personaggio, non Virna Lisi ma Adriana Balestra, fosse una donna anziana. Sai quanti anni aveva nel film il ruolo di Virna Lisi? Non lo so, perché non ha mai veramente bella. Una donna della mia età, senti quanti anni aveva? Secondo te quanti anni ho? Ma io così 34? No. 33? No, hai preso la direzione sbagliata, su. 35? No. 36? 37? No. 39? Hai saltato i 38. 38? No. 40? Sì, 40. Compiuti da un mese. Ho letto che 40 anni è una gran bella età. Sì. L'ho letto anch'io, sono tutte fregnacce. Comunque, lei non li dimostra. Ma li ho. Cioè, ma ti rendi conto? Per me era giovanissima. Io ho sempre pensato che a 40 anni sia giovanissima. Io ero convinta che il personaggio di Adriana Balestra fosse una nonna un po' anziana. Ma è più giovane di me adesso. Insomma, fa 40 anni un mese. Allora, il ha vinto il Davide Donatello, ma anche il nastro d'argento, Virnalisi. Per questo? Sì. Che t'avevo detto? Che meraviglia, questo film. Vabbè, dai, siamo in atmosfera. Ci ascoltiamo. Godiamoci ancora. No, perché tra l'altro, nell'altro pezzetto c'è un altro grande attore caratterista. Che è la Guido Nicheli, era veramente il E così il ce li godiamo tutti e due. Il Dogui, vabbè, dai, concediamoci ma quest'altra botta di anni Ottanta. Ma cosa vuoi parlare a quest'ora? A quest'ora si dorme, no? Poi cosa dobbiamo dire? C'è una vita che parliamo. Vabbè. Parliamo delle tonsille del bambino, delle vacanze, delle cameriere e delle tue macchine. Ecco, non si parla d'altro che delle tue macchine. Ti ricordi quella volta a Cortina? No, non mi ricordo per esempio che macchina avevo, se era un Alfone 1009 o se era l'Aurelia Spider. Senti, cos'ero? Alfista o lancista? Era una Porsche. Esatto, brava, macchina di grande libidine. Hai ragione tu, Adriana, quelli erano bei tempi. Sto pensando che quasi quasi me ne faccio un'altra di Porsche. Come la vedi? Ah, scusami, io ti vengo a trovare, faccio il viaggio rilassato e impiego anche mezz'ora di meno. Ecco, bravo. Così almeno abbiamo mezz'ora di più per parlare. E vabbè, buonanotte. Beh, senti, un momento straordinario. Ci siamo concessi questa botta di nostalgia perché la scomparsa di Virnalisi ci ha veramente così, ci ha toccato. Insomma, è stata una cosa come se fosse mancata una di famiglia. Posso dire una cosa che io faccio sempre a Natale, la sera di Natale? Oddio, quest'anno sono in radio, quindi lo dovrò fare un po' di nascosto perché sono qua in turno la sera di Natale. Io non ci sono, vieni tu. No, io ci sono la sera di Natale. C'ho degli impegni, devo andare in un posticino. No, la sera di Natale sono qua e... Io tutti gli anni la sera di Natale mi riguardo Vacanze di Natale. Sì. Quello vero, quel primo. Beh, ce n'è uno solo. Sì, ce n'è uno solo, lo guardo anche perché... Poi lo guardo tutto il film solo per aspettare una battuta. Possiamo... Quella di Tonino Cereso? No, non quella, lo sa a memoria Daniele Bellasio. No, dai, facciamo una cosa. La mandiamo subito. Prima che sia Natale. Sì. Così poi non ci pensiamo più. L'abbiamo mandata. L'abbiamo mandata. Quindi 27 in diretta. Quindi 27... Che, no, non niente, la... No, non magari dici... la rimandiamo di nuovo, eccola qua. Silenzio, ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa. Beh, anche questo Natale ce lo siamo levato dalle palle. Vabbè, io con questa auguro sempre buon Natale, perché per me è una battuta fondamentale del cinema italiano, quindi buon Natale a tutti. Beh, la prossima settimana siamo in diretta. Siamo qui, guarda, cioè, sono già teso, c'ho una tensione che cresce. Si vede che sei già pronto anche per il prossimo sabato 27 dicembre. Però che bella puntata che abbiamo fatto, ma anche le due ore precedenti, Non ti sono piaciute? Lunedì, radio24.it, mi scarico il podcast, risento il sabato del villaggio, risento, Radio YouTube non lo risento perché c'è un conduttore antipaticissimo. Ti dobbiamo dare cosa? Dobbiamo augurare buon Natale, perché noi ci risentiamo il 27 Natale, con Radio Tube e col sabato del villaggio. E nulla, dai, si è concluso per oggi il nostro appuntamento con Radio Tube, quindi un buon sabato sera a tutti. Ci ritroviamo sabato prossimo e auguri a tutti. Ciao.